sconvocati. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì, sì, effettivamente ci può stare. Andrea avrebbe sì, ha lasciato il piede lì. Anzi, è andato pure. Sì, ci può stare, ci può stare. C'è rammarico perché al di là dell'espulsione che poteva starci, visto che era già stato ammonito di Vidal, purtroppo mi sembra che ci sia anche un rigore abbastanza chiaro. L'abbiamo visto prima, sì. Su Elkaduri, quindi sotto questo aspetto non siamo molto fortunati. Eccolo qua. Lì per lì non mi è sembrato neanche che ci fosse stato contatto. Lui mi ha spergiurato che di essere stato sfiorato. Però è anche vero che per dare un rigore, cioè, non è basta accarezzare o toccare uno, ecco, un rigore deve essere una cosa un po' più evidente, un po' più netta. Come ho sentito il tocco durante la partita, si è visto anche qua, quindi è un rigore netto, anche se non l'arbitro può sbagliare in queste cose, quindi non dobbiamo troppo pensare a queste cose. Sì o no? Beh, mi sembra abbastanza evidente, sì, ma... Il casino che ne esce sarà molto peggiore rispetto ad un errore che c'è, è evidente, come secondo me è stato un errore non dare il doppio giallo a Vidal, e quello forse l'errore più grave di Rizzoli, il più evidente. Secondo me ci stava anche un rigore per la Sampdoria, però migliore in campo Mihajlovic, per quello che ha detto, Pierluigi. No, Mihajlovic è da sottolineare, ne parlavamo ieri proprio in tutti i convocati weekend, comunque insomma c'era anche Filippo Galli in collegamento, poi magari nella pratica è un po' più difficile quando ti succedono gli episodi, ma va sottolineato il fatto che un allenatore che si concentra soltanto sulle cose che sono in suo controllo, quindi sulla prestazione della squadra più che sul risultato, sulle recriminazioni arbitrali, secondo me dà un grande messaggio, che non è soltanto un grande messaggio, diciamo così, buonista, volemmo sempre. No, è un grande messaggio utile per la squadra per ragionare sulle cose su cui una squadra può ragionare. Insomma. Certo, ma perché l'ha detto chiaro, no? Io a questi gli levo gli alibi, e a Maxi Lopez gli levo anche la pelle la prossima volta che lo vedo per quello che ha fatto. Lì non è colpa di quello che arbitrava, è colpa di Maxi Lopez, che un sacco di volte abbiamo difeso, era stato veramente mi vengono solo parole che non stanno bene, quindi non le dico. Massimiliano da Bologna, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. La prima cosa, una nota di servizio: come ho già detto altre volte, bisognerebbe che la trasmissione Tiki Taka la facessero un pochino prima. Sì, alle 6 del mattino, secondo me. Ho proposto alle 6 del mattino. Stasera, dai. No, è fatta molto bene, però grazie. Ovviamente magari ci sono alcune sere che magari si fa un po' fatica a seguirla fino alla fine, tutto qua. Senta, ma posso chiedere una cosa? Ma lei no, ha ragione, eh. Io addirittura l'ho detto, si può scavalcare la mezzanotte e poi andare alla mattina, in prima mattinata. No, dai, stasera 23:40 è quasi discreto, dai. È quasi, vediamo se poi io controllo l'orario d'inizio. Massimiliano, ma lei si è offeso perché ho detto che Renzi è logorroico? Mi sembra cronaca, cioè ha parlato un'ora e venti. No, poi molti dicono, ma mi fanno un mazzo così, e incoraggiamolo questo ragazzo, cerchiamo di essere uniti in questo paese. No, semplicemente. No, ha parlato moltissimo ed è difficile sentire. È chiaro che... Ma lo capite anche voi, no? Che siete intelligenti, che è una battuta, che ci mancherebbe altro, anche se non so, poi facciamo, vediamo i dati di ascolto, non lo so. Raffaella scrive, quando Renzi viene a scuola, che mi organizzo e faccio filone? Non lo so, Raffaella, faremo sapere. Dica... Come si dica? Massimiliano dica. No, vi volevo porre due argomentazioni, poi dopo vi ascolto per radio. Sì. Guardando le partite, io sono un tifoso della Juventus, guardando le partite della Juventus e anche quelle della Roma, perché adesso con la tecnologia che c'è si riescono a vedere praticamente tutte e due, non giocando quasi mai in contemporanea, noto che fino all'1-0 le due squadre sono identiche, riescono ad assediare l'avversario e non dare respiro. Però la Juventus, e non dalle ultime partite per la storia della Europa League, ma già da un po' di tempo, dopo l'1-0, massimo 2-0, proprio si affloscia. La Roma sul 3-0, vedi, con la Sampdoria, continua ad andare avanti a tamburo battente, quindi probabilmente c'è proprio una differenza di testa più che di stanchezza. Ma non, e questa non lo è la prima cosa. Ma anche circostanze, perché non ho visto una Roma mostruosa a Bologna, tra l'altro gli ultimi sei mesi la Roma in trasferta ha vinto due volte. Poi? Veloce. E l'altra cosa veloce è questa. Io è un dato matematico. Io abbiamo preso Osvaldo, vabbè, gratuitamente, ma praticamente se si fa male Tevez abbiamo Quagliarella, Giovinco, Osvaldo, Vucic. Se si fa male Barzagli abbiamo Caceres. Basta, del resto d'ascolto. Sì. Questo è oggettivo. Davanti c'è più abbondanza. Davanti c'è più abbondanza. Dubbi, forse ce n'è anche troppa da un certo punto di vista, visto che Quagliarella è ridotto veramente. Dietro ci sarebbe anche Ogbonna, che invece non è arrivato gratis, però sta un po' deludendo. Comunque, no, sai cosa, Pier? È che questa storia della stanchezza su cui Conte ha insistito così tanto è, insomma, secondo me è un po' stucchevole. È vero i viaggi, è vero le coppe, però diamo un'occhiata ai calendari di qualunque altro sport. Ragazzi, si saltano da un aereo all'altro, giocano tutti i giorni. Io difficilmente sento uno dire: ah, mio, sono stanco. No, è vero, oggi. Però è anche vero che tu il confronto lo devi fare sull'omogeneità, no? Sì, cioè, sì. Che altri sport giochino a livello di europei, mondiali di basket, si gioca anche tutti i giorni, certo. Quindi voglio dire, non è quello il discorso. È qui è il paragone fra la Juve, per esempio, e la Roma. È chiaro che la Roma, non avendo le coppe, ha un vantaggio dal punto di vista fisico in questa fase della stagione rispetto alla Juve, però insomma, è bello giocare le coppe. No, ma certo, ma poi insomma sono professionisti, lo fanno per mestiere, sono atleti professionisti per l'appunto, quindi penso dovrebbe essere abbastanza normale, cioè quello di sopportare anche questo tipo di fatica. Poi che c'entra? Allora cosa fai? Non ti qualifichi per le coppe, non fai le coppe, esci apposta? Non è un discorso che regge. Anche questo mi suona abbastanza come un alibi, e a me gli alibi piace un pochissimo. Giovanni Napoli. Buongiorno a voi, complimenti. È un peccato che mi metto a parlare di arbitri con voi, però purtroppo sono costretto. Volevo dire, è vero che è stato la di studi come sempre per le televisioni, le radio e quant'altro, e diciamo è manna che piove dal cielo, quando la Juve vince un rigore non è segnato, però quando magari poi subisce un torto e vince comunque la partita, faccio un esempio, la partita di domenica con il Chievo, dove c'era un calcione che ha subito Llorente sullo 0-0, poi la Juve ha vinto comunque, quella non va, sì, ma, non va, ma a va bene, ma ognuno ha i suoi dossier personali, Giovanni, ognuno ha i suoi dossier che si produce e poi ovviamente li tira fuori in maniera ciclica. Adesso ieri Torino a me ha deluso nel complesso, e al netto di questi episodi arbitrali a me ha deluso, perché ha giocato una partita diversa da quella che si sarebbe potuto addirittura permettere, no, Pierluigi, con quella classifica? Sicuramente, mi sembra un'analisi perfetta, ma insomma sai, il calcio alla fine è uno sport che è molto legato agli episodi, quindi forse anche uno dei motivi della bellezza di questo gioco, che è molto gioco, certe volte più gioco che sport, e non sempre nella partita secca la squadra migliore vince e gli episodi contano tanto, insomma, per cui è difficile in questo momento non comprendere le ragioni dei tifosi del Torino. Poi capisco, sicuramente nella partita ci sono stati tanti episodi, c'è stata anche la spinta sul Llorente senza alcun dubbio, che era calcio di rigore al 50esimo, quella poteva chiudere la partita, c'è stato anche per due volte il secondo giallo mancato, quello secondo me è stato l'errore più grave. Io quello è l'errore, sì, dal punto di vista arbitrale quello è l'errore più incomprensibile, nel senso che lì anche perché, sai cosa, che è chiaro che Pirlo ha toccato il Caduri, ma secondo me quello ha fatto un tuffo, ha accentuato in maniera così evidente la caduta nella meccanica proprio, che uno poteva anche non capire. Poi è chiaro che secondo il 50% dei tifosi italiani Rizzoli è un venduto, questo è evidente, per l'altro 50% invece non ha visto l'errore del rigore su Llorente, quindi è un venduto lo stesso, di conseguenza sarà da Milano, chissà che cosa dice. Sara? Pronto? Ciao Carlo. Ciao. Ciao. Ascolta, io però volevo parlare dell'Italia del rugby, insomma, era un altro tipo di valutazione. E so cosa ne pensi te, diciamo, del fatto che continua a perdere, però anche questa è cronaca. E fa figuracce, però insomma volevo un attimino, cioè comunque far riflettere sul fatto che bisogna essere anche un attimino consci delle proprie possibilità e valori e non pretendere la luna. Per cui... E quindi ci accontentiamo di perdere Vita Natural Durante, e si, tanto si beccano 40 milioni di euro l'anno per stare nelle Sei Nazioni, torneo dal quale non si può retrocedere. E sì, non si sì, può essere esclusi, cioè, non è che no, è come se non so, come se una squadra, cioè, per rimanere nel campo calcistico, come una squadra, cioè, senza offesa, come non so, il Verona o comunque di media classifica, pretendesse di vincere la però può anche non retrocedere. Trovo solo una cosa: il rugby è uno sport meraviglioso per il quale ho un rispetto totale. C'è molto marketing, questo lo dico, nel senso che c'è questo grande entusiasmo attorno al rugby che sopravvive alle tante sconfitte, ma questo mi fa piacere, cioè, voglio dire, se noi siamo qui a sottolineare gli aspetti positivi, non è, bisogna essere schiavi del risultato, un certo tipo di clima, poi non è che ci si può indignare o storcere il naso perché la nostra nazionale, che perde quasi sempre purtroppo, comunque riesce a tirar fuori i consensi. È un dato, questo qui è un dato oggettivo, cioè che ci sia, che l'ufficio marketing della Federazione della Rugby sia composto da dei geni, io non... No, ma sai cosa, ma sono gli unici sportivi professionisti che riescono anche a vendere, appunto, a vendere questa immagine perdendo sempre, questo che dico. Questo lo dico, se fai sportivo perdere sempre non puoi, se no, cioè, puoi, e allora diciamo che sei scarso. A parte, altrimenti... io sono amico di Castrogiovanni, è meglio non contraddirlo, per cui gli mando un bacio, un abbraccio, no, e ribadisco affetto per tutta la squadra. No, ma questo è evidente, insomma, è chiaro, un po' di eccesso di retorica del rugby, secondo me c'è stato, lo dico sapendo che questa cosa qui è impopolare, però va benissimo così. Le partite di rugby sono uno spettacolo, soprattutto quando si gioca ad altissimo livello. È chiaro che noi non siamo, rispetto agli altri 5 paesi delle Sei Nazioni, un paese che nasce con quella tradizione rugbistica, quindi il discorso che faceva Sara è un discorso giusto, cioè è ovvio che noi siamo sempre lì, che se vinciamo una partita, o addirittura come è successo in passato ne vinciamo due, abbiamo fatto un capolavoro. Quindi questa ci deve essere consapevolezza della nostra dimensione. Detto questo, ribadisco che è abbastanza sorprendente, sì. Questo sport riesce a catturare i consensi ed avere un'immagine strepitosa anche senza vittorie, viva Dio. Io non discuto l'immagine, né quello che c'è dentro il rugby, men che meno discuto il rugby in sé come gioco, che a me piace da morire. Discuto semplicemente la enorme demagogia che si riesce a fare intorno alla nazionale, di cui certe volte si sorprendono anche gli stessi giocatori, perché Castrogiovanni, il tuo amico Castrogiovanni, poco tempo fa, di fronte a un plotone di giornalisti che dicevano: ah, bravi, come siete stati bravi oggi a prenderne solo non mi ricordo quanti dalla Francia, lui dice: bah, bravi, vabbè, a dire la verità abbiamo perso come sempre, forse tanto bravi non siamo, ha detto lui. Cosa qui è una sorta di autoindulgenza, sì, che non fa benissimo, secondo me. Però insomma, ribadisco, lunga vita al rugby, speriamo di vincere sempre di più, e chi va a vedere le partite poi alla fine torna a casa sempre felice, perché sì, è veramente un ambiente sano da questo punto di vista. Bisogna incentivarlo. Beh, si incentiva anche da solo, riempio tutte le volte. Vabbè, Pier, senti, ti lascio andare a preparare la tiki-taka, che ci sentiamo domani alle 2. Sì, 14:05. Mi raccomando, no, L'orario d'inizio è stasera. 23:40 italiano. Per favore. Ciao. Traffico. Noi non siamo un popolo che non ha le caratteristiche per dire. Abbiamo troppo il culo nel burro, non ce n'è di balle. Poi sono pochi giocatori. Secondo me a quel livello lì non ce n'è, non penso che nessun'altra nazionale possa permettersi questo standard di prestazioni come quello che sta accadendo alla nazionale di rugby in questi anni, senza di fatto patire a livello di critiche serie sulla gestione, su come si fa. Tutti convocati. La mette in mezzo Samoa, palla al limite, si gira Tevez, parte il tiro, rete! Con mis amigos siempre escuchamos lo que es la cumbia argentina, que todos ya lo han escuchado, y siempre suena una trompeta, entonces hacemos así. Thank you. Tevez pifferaio magico dunque. Ma basta con le cose sulla Juventus, sennò poi mi dicono: sei Juventus, non sei di qua, sei di là. Vabbè, oppure mi scrivono: è penoso sentirla difendere un arbitro che contro la Juve non riesce mai ad essere duro e leale come con gli altri. Damiano insieme che mi scrive: vergogna, va bene. No, io mi vergogno di più di quello che di quello che ha detto l'ex segretario del PD romano Enrico Miccoli, deputato peraltro, chiedendo a Renzi di intervenire. Non lo so, poi vi rappresentate con me che se dico che è logorroico. Io sinceramente, un deputato che qualcuno avrà anche eletto, che in un giorno come questo tira in ballo, un giorno come questo importante ovviamente per altri motivi che non sono calcistici, tira in ballo la nuova Calciopoli, mi sembra, a me non piace, non lo so, anche lì va bene, non mi piace, posso dire che non mi piace o devo dire qualcos'altro? Silvio Lecco, buongiorno. Buongiorno. Ah, per la cronaca, Silvio, mi scusi, quello che avete sentito prima del traffico, il commento era di Giorgio Terruzzi, che gli appassionati, tutti, ogni appassionato di rugby conosce perfettamente, perché se c'è un collega, anzi un maestro, che conosce il rugby e che lo ama come lui, insomma, non ce n'è un altro come lui da questo punto di vista. Prego, Silvio. Sì, io volevo dire solo che non sono sportivo, nel senso che sì, a me del risultato interessa solo una cosa, che vinca l'Inter, e ultimamente non ce la facciamo proprio più. E questo va benissimo. A me, io l'incipit lo apprezzo molto. Quindi resto scandalizzato, o più che scandalizzato, anche nauseato. No, bisogna essere sportivi. Io sono un tifoso. Sì, bravissimo, così si parla. Bravo. Quindi? E quindi ce l'ho a morte con la situazione degli arbitri nelle ultime 8 decisioni sfavorevoli all'Inter, grandi come una casa. Ma secondo me sono anche più di 8. Sì. Questo io non lo so. Io. No, secondo me, guardi, non ho i conti sotto mano, ma sono state davvero tante. Cioè, dall'altra parte, ovviamente, evidente c'è quella di Firenze fuori gioco, però insomma, è chiaro che. No, ma lei ha ragione, le sto dando ragione. Sto dicendo che secondo me sono anche più di 8. Non si sa perché, ma vedremo. No, Petti, lei dice che fanno apposta? Cioè, no, lei è no, per la tesi della premeditazione del disegno di Nicchi e Vraschi contro l'Inter? No, assolutamente. Come io no? Io sono per la tesi, come si chiama? Che se una cosa deve andare male, è giusto che vada male. E vabbè, ma ha fatto il tifoso fino adesso sta facendo filosofia, Silvio. No, non sta facendo filosofia. Dai, dicala, a me lo può dire. Non lo dico a nessuno. Giuro. Sono convintissimo che non sia un campionato particolarmente regolare, ma come del resto non è la prima volta. Glielo dico da puro tifoso, non sportivo. Bravo, ok, ma non molto regolare da che punto di vista? Dagli arbitraggi. Cioè, lei dice che lo stanno facendo vincere alla Juventus? No, adesso le deve dire. L'anno scorso hanno portato il Milan in Coppa. Perfetto. E quest'anno? E quest'anno probabilmente anche la situazione di ieri della Juve col Torino ci stava, no? Un rigorino a favore del Torino. No, ci stava, c'era, certamente. Probabilmente appunto, anche quella a favore della Juventus. Ma sicuramente, guardi, c'era il secondo giallo a Vidal. Questo per certo. Detto questo, secondo me la Juventus è la squadra più forte, quindi è la squadra più forte. Ieri Torino mi ha deluso e questo è un altro dato di fatto. E ripeto per l'ennesima volta, io insomma mi alzo in piedi ad applaudire Siniša Mihajlović, che pure ieri secondo me i suoi torti se li è presi, perché gol di Rami probabilmente irregolare per il contrasto di Pazzini, però il portiere della Sampdoria è veramente una pippa, ragazzi, perché se il portiere può usare le mani, Pazzini è andato in questo contrasto ovviamente per cercare di prendere il pallone di testa, è arrivato quasi a prenderlo lui. Detto questo, probabilmente era fallo, secondo me ci stava anche rigore su Eder, almeno vista la violenza di quel tipo di impatto. Invece Mihajlović no. Sono molto più arrabbiato con Lopez, perché non si possono fare certe stupidaggini, non si possono prendere i rossi così stupidamente, perciò per questo sì che sono incazzato, non ci ho voluto parlare adesso, ma martedì li parlo, però è sicuro. Quindi A me piace lui, poi i gusti sono gusti, Mazzarri e poi Lotito. Mazzarri, stuzzicato su questo argomento, ha parlato chiaramente di un rigore netto non dato all'Inter l'ultimo minuto. Io non ho parlato. A me hanno detto se deve parlare degli arbitri, ho detto per favore non mi fate parlare degli arbitri, quindi non ho parlato. No, poi in realtà ha parlato, ha detto se mi fate parlare, devo dire come si fa a non dare questo rigore. Là, poi l'ha detto anche, ne ha parlato. Lotito. Io il mio motto, però ricordavo sempre, è il motto della Lazio, non mollare mai. Io la società non la vendo, non ho intenzione di venderla, già l'ho detto che la lascerò in eredità a mio figlio, quindi se ne devono fare una ragione. Questo non te lo devono fare una ragione. No, ieri avete visto questa contestazione, beh, peraltro è stata impressionante, devo dire, perché così tanta gente all'Olimpico non c'era neanche nel derby quando giochi in casa la Lazio, ovviamente sto esagerando, tutti con quei cartelli contro Lotito. Una cosa di cui abbiamo parlato molto è che non capirò, comunque continuerò a non capire. Poi se voi conoscete quale imprenditore di qualunque angolo del mondo sia lì con i soldi in bocca da dare per comprare la Lazio, allora ditemelo, perché io non ho notizia di questo. Fausto Brescia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire due cose velocissime, una leggera e una un po' più. Prego, poi le commentiamo domani perché siamo quasi in chiusura. Dica. Tifoso juventino, la prima è che secondo me se l'arbitro non ha visto quel rigore, a parte che noi siamo stufi di vincere eventualmente con quelli che ci dicono, perché anche noi juventini non è che troviamo vantaggio da queste cose. Allora dico una battuta, lì in area qualcosa è successo. Allora se lui ha giudicato che non c'era fallo, doveva ammonire il giocatore del Torino, ma anche secondo me seconda ammonizione ed era espulsione. Guardi, sulla simulazione è chiaro che sarebbe stato la chiusura di quel cerchio un po' perverso, un po' storto. Però il Kadri agganciato, arpionato da Pirlo e il rigore c'era. Davvero nella dinamica della caduta sembrava uno che si è buttato, sembrava uno fulminato sulla via di Buffon. Tino, Modena. Sì, buongiorno, senta, signor Gentile, sì. Uno che parla spesso della Juve e quindi dice anche delle cose vere. Ha iniziato a buttarsi e Pirlo ha commesso l'ingenuità di agganciarlo. L'arbitro era vicinissimo e quindi ha visto che lui ha iniziato prima. Allora perché non l'ha ammonito per simulazione? Perché ha sbagliato due volte, però è che Pirlo ha commesso il rigore. Ha fatto la stessa cosa, si ricorda, nella partita tra Krasic e Portanova a Torino. Non me la ricordo, guardi, ho 20 secondi per chiudere, io la saluto, se vuole intervenire domani nell'orario normale, cioè dalle 14 alle 15:20 siamo qui. Non mi ricordo Krasic, non mi ricordo niente di quelle cose, quello era rigore, dai. Era rigore, punto e basta, poi c'è a cercare mille scuse, mille giustificazioni. Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltriti in regia. Noi ci sentiamo domani dopo il giro delle 14 perché domani Renzi non c'è, mentre Gigi Telesforo torna in questo suo spazio abituale. Ciao. Forza Cristo, 2:06:29 secondo e medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, primo Zöggler, sicuramente medaglia. Armin Zöggler, medaglia che sei l'ultimo giro. Dai Arianna, che l'argento si può fare. Arianna Fontana, argento. 2:45:20, il tempo da battere in diretta per passare al comando per Cristo Finnerò, perché arriva, abbiamo una medaglia di bronzo, incredibile, impensabile, con Cristo Finnerò. Partite, la finale dei 1500 metri. Dai Arianna, devi sfruttare il tuo sprint. Zushi Marianna, chiudi e lanciati. Zushi Marianna, è bronzo, seconda medaglia olimpica per Arianna Fontana. La Corea ha allargato molto. L'Italia è terza. Andiamo a bronzo anche in questa occasione. Comincia quindi questa staffetta mista. Buona anche il quarto. E sì. Buona anche il quinto. Alleluia. E l'Italia si prende la medaglia di bronzo. Sì! Ci siamo!